Buonasera, bentornate e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici su Radio Live. In realtà non ce ne siamo mai andati perché avete appena Assolutamente. sentito la versione radiofonica di Umana Foresta, il lavoro che ha aperto il festival in linea d'aria, Compagnia Petra, Antonella Iacolorenzi. Adesso io e il Fido Giovanni Passariello ci intrufoliamo tra il pubblico che ha appena assistito alla performance per magari andare a rivolgere un paio di domande inopportune. Esatto. Ci sono alcuni dei membri del cast dello spettacolo, qui possiamo Complimenti, vedere, complimenti complimenti ragazzi, ragazzi, alcuni complimenti. degli attori che hanno animato la performance, perché ricordiamo, la performance è stata animata, è stata portata in scena, interpretata da abitanti, veri abitanti del paese del Borgo di Cirigliano. Anche Enzo, che avete mo avuto modo di ascoltare alla fisarmonica, ha suonato l'organetto anche proprio in scena. Allora, Enzo, com'è andata questa, esperienza teatrale? A me mi è piaciuto. Ti sei divertito? Sì, tanto. Dal primo giorno che siete venuti. Quanto tempo è che ci avete lavorato su questo spettacolo? Io venivo tutte le sere qua, tutti i giorni. Comunque mi piace tanto. Sono state giornate impegnative, vi No. ha chiesto tanto sforzo, Tanto tanto lavoro, tempo. la mattina andavo al lavoro e poi me ne venivo qua. Ok, perché tu sarai della Protezione Civile, quindi insomma il tuo lavoro è Molto quello, giusto? importante, ma Intanto ringraziamo anche Enzo, abbiamo qui un altro dei membri altra attura. del cast che ci ha raccontato una storia che ha dato un po' anche la chiave, no? Anche della scenografia, del tavolo imbandito nel ritorno a Cirigliano. Insomma, benvenuto ai microfoni di Radio Live. Grazie, buonasera di questa opportunità. Possiamo chiederti il nome perché noi non lo sappiamo a questo punto, Sì, ti abbiamo visto solo in Vincenzo scena. Sisindrio mi chiamo. E allora, Vincenzo, com'è stato partecipare a questa esperienza? È stata una bellissima esperienza che noi abbiamo raccontato delle piccole storie del nostro paese che sono reali. Com'è stato il dialogo, l'incontro con È Antonella? stato molto costruttivo sia da parte del comune che dalla parte di tutti voi dello Stato. Senti Vincenzo, tu sei una storia un po' particolare, no? Perché in un momento in cui quasi tutte le persone con cui parliamo o incontriamo in questi paesi ci dicono che sono preoccupati perché vedono una tendenza ad andare via in qualche modo, no? Dai borghi e cercano insomma di trovare varie strategie per trattenere le persone, tu sei tornato qua guidato da un sogno in Sì, qualche modo. praticamente sono venuto qui che si sta tranquilli, in pace, però i giovani purtroppo il lavoro viene a mancare, anche perché non so, non è per loro fare tipo il contadino, queste cose qui. Tu l'hai trovato lavoro invece qua? No, io diciamo lavoro non ne ho trovato perché non posso, comunque sia aiuto qualche anziano, sto a Ok. disposizione del comune, se dovesse servire qualcosa sto a disposizione. Hai fatto bene quindi in definitiva a seguire secondo te quel sogno della tavola imbandita? Certo, è stato ritrovarmi qua anche se fa un po' paura perché so che poi andrò dove sta mia bisnonna. Dove sta la tua bisnonna? Dove prima o poi andiamo tutti, intendi? Certo, perché purtroppo è una cosa vera, si muore. Eh già, prima o poi si finisce. Speriamo il più tardi possibile, Vincenzo. Certo, nessuno vorrebbe morire. Per tutti i presenti in questa stanza e non solo, ma intanto grazie e complimenti Grazie ancora. mille. Ci Noi andiamo a spostiamo? cercare di acchiappare qualche altra testimonianza Esatto, io qui vorrei intorno. Ecco, sì, di pure. interessare l'attore Abbiamo qua un della altro tavola che dei membri del cast. era al centro della tavola. Buonasera. Può Buonasera. gentilmente presentarsi ai microfoni Nicola Cirelli. Nicola Cirelli. Faccio la parte, cioè la parte, ciò che è successo veramente quando sono nato io, perché allora non c'erano i telefonini, cioè ci si gridava dalle montagne per far sì che le persone stavano in campagna. Come facevano ad ascoltare? Gridando in questo modo. Certo. Cioè andavi nella parte più alta, andavi per far sì che ti ascoltasse. Però sai, la voce non esce perfetta. Certo. E quindi ti tocca farlo varie volte. Io l'ho fatto 3 volte, però bisogna farlo varie volte per ascoltare. Quando uno è distante, come fai ad ascoltare? Ripetendo varie volte. Eh certo, anche dalle mie parti in Umbria, in montagna, ci si urlava da valle a valle. Ma anche da parti mie, mia madre, se mi deve chiamare, urla. Quindi è un modo anche per le nostre parti del sud che siamo, tentiamo in tutti i modi di farci far arrivare la nostra voce. Cioè, ma io vorrei farle una domanda. Con affetto, quindi, anche, esatto, non solo con aggressività. L'affetto, sì, esatto. Bravissimo, giusta sottolineatura. Vorrei chiederle com'è stata questa esperienza, cosa porta con sé da stasera a domani, nei prossimi giorni. È stata un'esperienza bellissima, grazie anche ad Antonella, a Raffaella e ad Angelo, veramente bravi che ci hanno seguiti, veramente. Appunto, stavo prendendo parola, bensì dopo mi ha anticipata a fianco. E com'è stata questa, scusami Silvia, no, vai. Com'è stata l'esperienza da attore? Cioè l'esperienza da attore non è un attore, bensì abbiamo detto ciò che ci sentivamo, cioè quello che è successo veramente. Cioè no, non è una, cioè noi in questi piccoli paesini abbiamo spiegato più o meno ciò che si, ripeto, ciò che si faceva allora. Bensì, ora diciamo che sono tutte strade, allora erano tutti trattori. Immagino il cambiamento che ha vissuto questo paese, sì. E anche le persone che hanno comunque dovuto affrontare dei cambiamenti che per chi sono cambiamenti lenti e per chi invece sono cambiamenti comunque epocali. Il fatto che dica che prima c'erano i trattori, adesso invece passano le macchine. Ma diciamo che qua ancora si adeguano, perché non abbiamo ancora le strade di comunicazione. Oppure se tu vai in un bosco devi fare per forza le strade vecchie, le strade mulattiere. Noi siamo testimoni, perché per venire in questi paesi che fanno parte del festival in linea d'aria, molto spesso abbiamo sbagliato strada, ci siamo persi in strade che erano strade veramente sterrate, senza protezione. No, di fuori di quelle asfaltate, noi parliamo dei trattori. Trattori con cui andavano solo gli asini, i muli allora. E per far sì che portavano le olive, diciamo in sto periodo che ci sono le olive, come li porti addosso? E allora si usava l'asino, si usavano i muli e così via dicendo. Perché non potevi fare altro, sennò c'è una bella sfacchinata. Ma ora che è fatta, fare questo spettacolo, lavorare a questo spettacolo, è stato più faticoso o più liberatorio? Più liberatorio. E allora ringraziamo anche, grazie. Insomma, grazie a voi. Questo altro protagonista dello spettacolo di stasera, e vediamo se riusciamo a intercettare qualche altra voce, qualche altra testimonianza. Ecco che ci imbattiamo casualmente, o forse non casualmente, dato che le casualità non esistono, di nuovo nel sindaco del comune di Cirigliano. Allora, è contento di aver aderito, cioè di aver insomma ospitato questa iniziativa? Com'è andata? È andata benissimo, certo che siamo contenti, perché è stato un momento di far conoscere il nostro territorio e la nostra storia, perché stasera i nostri attori, i nostri ragazzi, i nostri amici hanno raccontato momenti della loro vita che ci appartiene, perché comunque essendo una piccola realtà ci si conosce, e quindi conosciamo i pregi, i difetti, un po' di tutti, ma soprattutto poi conosciamo la nostra vita, perché ci appartiene, noi viviamo, noi abbiamo scelto di vivere in un piccolo borgo. Si è emozionato un po' durante la visione? Certo. Anche noi, certo. Vero? Sì, io sì. Sì. Mi sono emozionato sia alle prove sia stasera, perché c'erano dei racconti che mi appartenevano, perché io come tanti di loro ho scelto di vivere a Cirigliano. Sono anch'io rientrato a Cirigliano, quindi ho vissuto un percorso come i nostri amici che stasera lo hanno descritto. Ma crede che da questa esperienza, da questo momento collettivo, questo momento di arte e di teatro il Cirigliano possa trovare lo spunto giusto per continuare un discorso che si è cominciato con il Festival di Nataria. Certo, ma in effetti questo è il terzo evento che noi facciamo per Matera 2019. Se siamo arrivati al terzo evento vuol dire che ci abbiamo messo anche del nostro. Siamo riusciti a incuriosire una fondazione e di far sì che in 3 anni sia venuto, nonostante pandemie, nonostante le difficoltà, ma soprattutto noi crediamo tantissimo nella nostra cultura, anche perché abbiamo la nostra storia che parla di cultura e che parla di alcuni aspetti fondamentali. E in effetti con Antonella e con gli altri ragazzi già stiamo intavolando un discorso di far sì che già il prossimo anno si possa mettere in piedi qualcosa, soprattutto per l'estate, perché noi in estate facciamo una serie di eventi culturali, ok? E questo ci arricchisce ancora di più con l'apporto poi di Antonella, di Filomena e degli altri ragazzi. Quindi un'esperienza che si dovrà ripetere. Certo, questa sera è la partenza, o comunque una delle partenze che ci ha permesso, insomma, di maturare e di crescere, ma soprattutto ci tengo a sottolineare di farci conoscere, perché se non questi sono momenti in cui ci fanno conoscere non soltanto all'interno della nostra regione, ma anche fuori. Grazie mille, Sindaco. Forse su questa nota di entusiasmo e di speranza possiamo forse anche per il momento lasciare che il pubblico si goda l'auto banchetto a base di noci, mandarini e vino rosso tipico, insomma, della stagione, e darci appuntamento al prossimo appuntamento di Radio Live, ovvero la trasmissione integrale della performance degli O-Team alle 8. Alle 8, bravo. Ad Aliano, esatto. Verso il quale No, c'è un errore, perché alle 8 noi avremo Diorama che manderemo in onda. Infatti Gianni, volevo vedere se eri attento. Infatti alle 8, dall'alto alle 8 il logo, però rimane il prossimo appuntamento alle 8, perché non perdetevi Diorama, l'intervista con gli O-Team, la compagnia che poi alle 9 presenterà il suo lavoro ad Aliano, che potrete sentire qui come sempre su Radio Live con lo spettacolo Fake. E quindi insieme possiamo continuare questa magnifica esperienza, e speriamo che le nostre voci saranno sempre ascoltate, sempre più lontano. E andiamo a mangiarci un mandarino. Dai, sì.